In collegamento telefonico con Alessandro Piva, che cura la seconda edizione di Sgarbatellum a Roma, all'Arena Garbatella, dal 1 al 5 agosto. Alessandro, bentrovato. Ciao Federico, bentrovato e saluto a tutti. Sì, Ci racconti? come no, con grande piacere perché questo è il secondo appuntamento per me con un mestiere, come dire, abbastanza inedito. Io faccio il regista solitamente, ma mi sono ritrovato a fare il conduttore, l'ideatore di una piccola rassegna di cinema all'Arena della Garbatella e devo dire vale la pena. E quindi eccoci alla seconda edizione, al secondo anno di Sgarbatellum. In un quartiere, come sai, molto vitale, molto amato dagli artisti e frequentato anche da molti giovani appassionati di arte e cultura. E l'arena è in un posto molto bello e quest'anno il format è sostanzialmente invariato. Si tratta di un piccolo ciclo di proiezioni, sono cinque nel dettaglio. Presenteremo i film in questo bel parco di Piazza Brina, nella Garbatella Vecchia, dove è nato il quartiere. Davanti a questo attento pubblico, come si è dimostrato l'anno scorso, e partiamo con Metti la nonna in freezer e inauguriamo la rassegna con Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, due giovanissimi registi molto bravi e promettenti, questa commedia leggera ma di costume, come si dice. Poi passiamo a un'opera prima più tradizionale, diciamo così, più stile cinema italiano, ed è Paolo Sassanelli, un attore molto, molto noto dal pubblico del cinema e della televisione. Io stesso ci ho lavorato più volte, è un bravissimo attore che si è cimentato in questa sua prima regia con i piccoli italiani tra Italia, Puglia e Olanda, per la precisione. E poi andiamo avanti con un film d'autore segnalato e molto apprezzato a Cannes, come sai, Figlia mia di Laura Bispoli. Sì. E ci sarà lei, la regista, con il produttore, illuminato produttore, dico io, Gregorio Paonessa, di Vivo Film, che parleranno con me e con il pubblico di dove sta andando il cinema d'impegno in Italia e in Europa. E poi andiamo avanti con Smetto quando voglio ad onore, l'ultimo film della saga di Sidney Sipilia. Ne parleremo insieme con lui, con il regista, e forse, spero, con Matteo Rovere, il coproduttore del film. E chiudiamo la rassegna con Call Me By Your Name, il film di Guadagnino, Chiamami col tuo nome, del quale parleremo non con Luca, che è ormai giramondo ed è difficile da agguantare, ma con Walter Fasano, che è un autore del montaggio e sodale di Luca, un vecchio amico suo, un vecchio amico mio, e insieme con lui parleremo di quello che è un po' anche la mia passione, perché io ho molto, diciamo, studiato cinema partendo proprio dal montaggio, adoro quel mestiere, è un po' una riscrittura del cinema, e Walter, che segue i progetti di Guadagnino sin dall'inizio, ci racconterà di che avventura è partire da un progetto che è solo sulla carta e seguirlo, coccolarlo fino all'uscita in sala e, nel caso di questo bel film, anche ai bellissimi risultati che ha avuto a livello internazionale. Alessandro, come era partito tutto questa rassegna? È partita perché un mio collega di lavoro e amico, Ciro Toto, ha avuto l'opportunità di far proseguire l'attività dell'Arena della Garbatella. Siccome è un'arena che mi affascina e al di là di tutto, l'arena per i romani non solo un'ottima opportunità estiva di recuperare film di cui si sente parlare che per più di una ragione spesso durante l'inverno non si riesce a vedere. Mi sembrava divertente l'idea di chiamare a raccolta un po' di amici, di addetti ai lavori, di colleghi che magari non si conoscono e che, come dire, con questa occasione hanno anche l'opportunità di confrontarsi insieme su dove stiamo andando, dove. Ecco, io adesso vivo di meno Roma, sono tornato molto più spesso a vivere a sud, a Bari per la precisione, da dove, come tu sai bene, sono partito anche con i miei film, e l'idea di essere a Roma per confrontarmi con delle persone che stimo e che, facendo cinema molto diverso a seconda dei casi, sono comunque degli appassionati, dei grandi professionisti, ecco, per me è come dire, un riferimento per capire dove sta andando chi fa il mio mestiere. Per quanto riguarda le informazioni, c'è uno spazio web a disposizione? Sulla pagina ormai Facebook è diventato riferimento per questo tipo di cose, c'è anche in questo caso una pagina Facebook, quella dell'Arena della Garbatella, dove di volta in volta ci sono tutti i dettagli delle varie proiezioni, sia nel caso di Sgrassatellum, del quale abbiamo detto tutti i titoli, l'ingresso è di 5 euro, ma anche degli altri titoli della programmazione dell'Arena, che sono tanti e sono, come ti dicevo, un'ottima opportunità per recuperare titoli anche difficili da vedere in certi casi, o comunque belli da rivedere in una cornice estiva, in una cornice all'aperto, per poi andarsi a mangiare un piatto di spaghetti nel rione, che come sai come dire, è uno dei motivi che mi ha spinto a organizzare questa rassegna. Allora, ricordiamo la seconda edizione di Sgarbatellum a Roma, all'Arena Garbatella, dal 1 al 5 agosto. Un saluto e un ringraziamento al curatore Alessandro Piva. Alessandro, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Crepi il lupo Federico, grazie per l'attenzione e complimenti, perché mi pare che ormai tu con le tue conversazioni hai sei un po' un punto di riferimento di tutti i colleghi di chi fa il cinema, e fra un po' accorperanno in volume audiovisivo tutte le tue interviste per fare il punto su ciò che si muove nel cinema italiano. Grazie per il lavoro che fai e per la passione che ci metti, Federico. Grazie a te, a presto, ciao Alessandro. A presto.